Componimento quarantunesimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Dello stesso. Umana cosa picciol tempo dura, e, certissimo detto, disse il veglio di Chio, conforme ebber natura le foglie e l'uman seme. Ma questa voce in petto raccolgon pochi. All'inquieta speme, figlia di giovin core, tutti prestian ricetto. Mentre è vermiglio il fiore di nostra etade acerba, l'alma vuota e superba cento dolci pensieri educa invano. Né morte aspetta, né vecchiezza, e nulla cura di morbi all'uom gagliardo e sano, ma stolto è chi non vede la giovinezza come arratte l'ale, e siccome alla culla poco il rogo è lontano. Tu presso a porre il piede in sul varco fatale della plutonia sede, ai presenti diletti la breve età commetti. Fine del componimento quarantunesimo. Fine di Canti di Giacomo Leopardi.